Buonasera a tutti, inizia Zardis Magnetics, programma radio che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dai studi di Radio Onde Furlane dalle ore 20 alle 21:30. Stiamo trasmettendo appunto qui da Udine, dove c'è la sede di Radio Onde Furlane, e andiamo con quella che è la sigla di questa trasmissione, che è Retribution dei Behind Enemy Lines. Questa era la sigla iniziale di questa trasmissione che Zardis Magnetics, ogni giovedì in diretta radiofonica dalle ore 20 alle 21:30 qui dai studi di Radio Onde Furlane da Udine. Stiamo trasmettendo sui 90 MHz e inoltre ci potete anche ascoltare in streaming, e basta insomma smanettare un po', trovate il sito di Radio Onde Furlane. Dovrei essere più preciso magari, ma dai, c'è solo quello, non sbagliate. E comunque ora andiamo all'ascolto di questa band italiana della scena punk hardcore. Sono laziali, esattamente di Viterbo, loro sono i Neid, è una band che esiste da 15 anni e tra le varie uscite ora ci ascoltiamo questo loro 7 pollici che si chiama Noise Treatment ed è datato 2017. Loro sono in Neid. Poi altra cosa che volevo specificare di questa band di Viterbo, Neid, che io ormai per abitudine ho presentato come punk hardcore, ma loro sì fanno parte della scena punk hardcore, ma sono appunto grind metal core. New nightmare. The war against the machines. Bene, abbiamo ascoltato in fretta ormai tutto il lato di questo 7 pollici che si chiama Noise Treatment. Loro sono in Neid, band che esiste da circa 15 anni nel territorio viterbese, e questo era appunto un loro album, scusate, un loro 7 pollici datato 2017. Ora invece andiamo all'ascolto di questa band di Fano, che vabbè non esiste più perché è esistita tra il 2006 e il 2011-2012, comunque ha lasciato varie testimonianze sonore, tra cui questo loro CD, e loro sono Un Quarto Morto. E quando sono le 20:14 circa di giovedì 23 dicembre 2021, un saluto, un mandi anche di bande nestre. E siamo qui a riprendere un po' il filo del discorso che abbiamo lasciato la scorsa settimana. La scorsa settimana si è parlato a lungo di CPR e del CPR di Gradisca, del lager per stranieri per senza documenti di Gradisca di Isonzo. Domenica si è svolto un presidio, una presenza solidale fuori dalle mura. È andata abbastanza bene, c'era un centinaio di solidali. Per questi tempi non è male, speriamo che sia di buon auspicio per proseguire la lotta contro queste strutture infami. E, dunque, dicevo, come aggiornamenti su questa vicenda del detenuto, del prigioniero che si è suicidato il 7 dicembre scorso, di cui non si conosceva ancora l'identità. Nei giorni successivi al presidio è emerso, insomma, pare che si tratti di un uomo di 44 anni, tunisino, non marocchino ma tunisino, e il suo nome è Ezzedine Anani, diciamo che un altro invisibile che ci ha lasciato senza poter, diciamo, neanche lasciare lasciare una traccia, insomma, noi che possiamo in qualche maniera raccoglierla per il momento. Speriamo che emerga qualcos'altro. Io, per iniziare questo mio intervento di stasera, vorrei dedicare la canzone che fra poco andrà in onda, appunto, alla memoria di questo nostro, chiamiamolo amico, che è una canzone che poi, appunto, vi spiegherò, una canzone degli anni 60, che io direi che può partire. Della libertà. Scopri il costo della libertà, sepolto nella terra, Madre Terra ti ingoierà, sdraiati giù. Era appunto questa la canzone di Crosby, Stills, Nash & Young, appunto, dicevo, esattamente nel 1970, era il lato B di un'altra canzone famosa, insomma, di Ohio, e come questa dedicata agli studenti della Kent University assassinati dalla Guardia Nazionale. Insomma, c'erano le proteste contro la guerra in Vietnam il 4 maggio 1970, e appunto scritta di getto da Stephen Stills, e così la volevo un po' dedicare alla memoria di questo detenuto del CPR di Gradisca, che appunto è stato ritrovato suicidato in quella struttura. E diciamo che adesso, che sono le circa le 8:20, ripeto, di giovedì, come sempre giovedì dalle 8, come è stato già detto in console, dalle 20 circa alle 21:30 va in onda Zaldin's Magnetics, che è appunto condotto da noi qui in diretta dagli studi di Via Volturno a Udine, e che ci occupiamo, diciamo, di fare un po' di raccontarvi un po' di aggiornamenti e di approfondimenti riguardo la repressione e anche il carcere, anche le strutture carcerarie e appunto il CPR, come ultimo caso vi ho detto. E io così vi faccio una specie di scaletta per stasera. Io mi riproponevo appunto di fare due piccoli aggiornamenti su due prigionieri non addomesticabili, due appunto prigionieri che sono attualmente appunto rinchiusi ma che non si piegano. E poi volevo parlarvi di un fatto di cronaca recente che riguarda un fatto successo in Grecia, e poi verso la fine parlarvi ancora dei discorsi che facevo le scorse volte su come andrebbe tramandata la memoria, insomma, di chi ha lottato, dei rivoluzionari e delle rivoluzionarie. Quindi, prima appunto, dopo aver letto dopo aver dedicato questa canzone, aver ricordato Ezzedine Anani, e adesso parliamo appunto di carcere, e abbiamo appunto un aggiornamento su Mauro Russetti Busa. Mauro Russetti Busa è detenuto al carcere di Ascoli Piceno, e già qualche giorno fa, perché questa notizia è del 12 dicembre, dicono che da una lettera datata 20 novembre Mauro comunica di non ricevere più la posta, per quanto lui scriva tantissimo. Hanno cercato di verificare i tracciamenti delle lettere, con posta 1 sembra che le lettere arrivino ma non gli vengono consegnate. Forse ci sono dei blocchi a livello di amministrazione carceraria. Il suo avvocato ha comunicato che gli andrà a far visita, e nel frattempo chi volesse scrivergli, appunto, qua ricordano il suo indirizzo, l'indirizzo del carcere. Ricordiamo appunto che Mauro è detenuto dal 2018 con l'accusa di vari attentati, un attentato a un distributore dell'ENI e un attentato a una sede di Casa Pound, sempre in Toscana, e che adesso stava aspettando l'appello, e che comunque si tratta di un compagno, diciamo, di un'altra generazione, sì, che ha sviluppato, insomma, varie esperienze, varie lotte già, diciamo, anni 80 e 90, e nonostante questo, insomma, che sia stato tanti anni dentro e che sia uscito, non ha, insomma, cambiato, non è, insomma, è sempre uno che lotta, che sì, poi paga per quello, per le azioni che, appunto, mette in pratica. Quindi, se è importante, appunto, tenere contatto anche con questi militanti, il suo punto, ricordo che, appunto, potete scrivere a Mauro Rossetti Busa, al carcere di Ascoli Piceno, e l'indirizzo è via dei Meli 218 36 100 Ascoli Piceno. Colgo l'occasione anche per salutare chi dovesse ascoltarci da una situazione di reclusione, che potrebbe essere in via Spalato, ma anche in altre strutture qui nella zona nostra, provincia Udine dintorni, diciamo. Voglio ricordare, prima di dimenticarmelo, anche che, siccome Mauro Rossetti Busa lo fa, ma che tutti quelli che si ritrovassero appunto in carcere possono andare a comporre una specie di bollettino che si chiama Olga, cioè che si chiama Olga, no? E lo trovate, per noi, per quelli liberi, diciamo, cosiddetti liberi, lo trovate su internet, sia da leggere che da stampare. Mentre invece, per chi è recluso, deve scrivere all'associazione Ampi Orizzonti, casella postale 10241 20122 Milano, per richiedere una copia dell'opuscolo. È un lavoro importante, esce circa ogni 3-4 volte all'anno, perché, appunto, è una iniziativa autogestita completamente dai prigionieri, che scrivono, appunto, a questa casella postale, e dove, appunto, si aggiornano senza dover passare o per la stampa, diciamo, di regime o per l'amministrazione, diciamo, strutture amministrative del Ministero della Giustizia. Io direi che ho parlato abbastanza e potremo ritornare alla nostra consueta musica, e prego la console. Intanto continuiamo l'ascolto di questa band di Fano, Un Quarto Morto. Thank you. Eccoci di nuovo, sì, siamo di nuovo in diretta e continuiamo gli aggiornamenti, così la parte informativa di Zardins, di Magnetics, dei giardini magnetici di questa sera, che è giovedì 23 dicembre e siamo su Radio Onde Furlane. Quindi volevo ribadire che questo opuscoletto, che si chiama Olga, è fatto appunto con le lettere dei detenuti prigionieri che lo desiderano fare da tutta Italia, dai carceri di tutta Italia. Quindi abbiamo, diciamo, uno spaccato della realtà carceraria, appunto la realtà veramente penosa del carcere di questo paese. Dopo aver parlato di Mauro Rossetti Busa, parliamo anche di Davide De Logu. Davide De Logu è prigioniero indipendentista, diciamo, è deportato, anche perché lui appunto si dichiara deportato perché lo hanno allontanato dalla sua patria, che è la Sardegna, e si trova a Vibo Valentia. E appunto su questo numero, che è il 149 di novembre di Olga, scrive Davide che da 12 anni che riceve Olga, ma che l'ultimo numero non gli è arrivato e quindi ci deve essere qualche problema. Appunto, io adesso non mi ricordo più se è ancora in isolamento Davide De Logu. Comunque ricordiamo appunto l'indirizzo, che è la galera di Vibo, Davide De Logu, Contrada Cuccari 89 900 Vibo Valentia. Un'altra prigioniera sua, diciamo compaesana, ex prigioniera, di nuovo prigioniera, appunto è Maddalena Calore, che appunto anche lei corrispondeva spesso su Olga, e risulta che un aggiornamento riguardante la compagna anarchica Maddalena Calore. La scorsa settimana, questo appunto è sempre il 13 dicembre questa notizia, la scorsa settimana la compagna anarchica Maddalena Calore stava finendo di scontare una pena definitiva ai domiciliari, è stata arrestata con l'accusa di evasione a seguito di un ritardo nel rientro dai permessi. Ricordiamo che Madda è stata arrestata nel marzo 2017 a Cagliari per un residuo di pena di 4 anni e 3 mesi dovuto a precedenti condanne. Per chi volesse scrivergli, il suo indirizzo è Maddalena Calore, carcere di Verona Montorio, via San Michele 15, 37141 Verona. Non lo ripeto, comunque sono tutti indirizzi, e cioè, insomma, sono nominativi che li trovate abbastanza, diciamo, comodamente sul web. Quello che mi preme ricordare, insomma, qui facendolo io in questo momento, è che non dimentichiamo questi compagni, e, insomma, che sono appunto sono refrattari, diciamo, alla repressione, eccetera, insomma, ai tentativi che fa lo Stato di addomesticarli. E direi che io guardo la console, che adesso possiamo andare ancora con un po' di musica. We'll be right back. σηκώθηκα το πρωί, δεν πήρα χαμπάρι ότι το πιάσαν οι αστυνομικοί. Εγώ πήγα εκεί στη Γάδα. Ανοίγει αυτός, μου ανοίγει την οθόνη, μου λέει, το γνωρίζει αυτό. Το γνωρίζω, είναι ο γιος μου, ο Νίκος. Μετά μου λέει αστυνομικός εκεί, τα συλληπιτήριά μου λέει. Έχει πεθάνει ο γιος μου λέει, το έχουν τραυματίσει λέει και δεν ξέρω τι. Μετά αρχίζω εγώ, τους λέω δολοφόνοι. Όπως τους είπα εγώ δολοφόνοι, φύγαν όλοι οι αστυνομικοί από το γραφείο εκεί που έδωσα την εγκατάθεση. Τώρα εμείς μπορούμε να δούμε αυτό το παιδί τώρα ξανά πίσω, να μιλήσουμε μαζί του. Θα μας χαμογελάσει πάλι έτσι, μόνο από εδώ θα το δούμε τώρα εμείς για να μας χαμογελάει. Αυτόν εδώ τον νοιαζόμουν και τον αγάπαγα. Μόνο η φωτογραφία μου έχει μείνει. Είδες η μάνα αυτού που είχε βγει. Ο αστυνομικός το πήρε αγκαλιά το γιο του. Εγώ, να, παίρνω κι εγώ αγκαλιά. Αυτόν εδώ. Και σκοτώσανε. Με 38 φυσίγκια. Αυτό το παιδί εδώ. Νικολάκη. Δικαιοσύνη θέλω, δικαιοσύνη να μπουν μέσα. Ecco, allora, quello che avete ascoltato era uno spezzone di un servizio che potete trovare insomma su YouTube. Io l'ho trovato su YouTube. Riguarda l'uccisione di un ragazzo di 18 anni che si chiama Nikos Sampanis. Quindi abbiamo ascoltato la sorella, una sorella e il papà di questo ragazzo, di un ragazzo che è stato ucciso il 22 ottobre nei dintorni di Atene dalla polizia. Loro raccontavano adesso appunto che erano disperati, ovviamente, e che il papà specialmente appunto ha detto che quando ha visto che il figlio non era tornato è andato in commissariato, ha chiesto di suo figlio e gli hanno detto suo figlio è morto, e quando lui ha detto assassini e sono spariti, è rimasto nel salone da solo, come dire, questi qua hanno una coda di paglia enorme, no? E poi non so io adesso nel merito come si è sviluppata questa vicenda. Comunque riguarda appunto, cioè nel frattempo di appunto dal 22 ottobre in qua non ho più saputo cosa è venuto fuori. E la notizia che appunto io l'ho trovata sul quindicinale anarchico internazionalista Bezmotivni, è il numero 19 del 22 novembre 2021, perché appunto alcuni diciamo anarchici hanno deciso di diciamo di dare solidarietà concreta a questo ragazzo, ai familiari di questo ragazzo appunto che è stato ucciso dalla polizia, diciamo facendo degli attacchi coordinati a banche e bancomat, e poi se non sbaglio ci sono altri aggiornamenti più recenti su un altro numero di Bezmotivni. Ma comunque io adesso stasera volevo parlarvi, cioè vi volevo leggere di questa vicenda da questo articolo appunto, il cui titolo appunto è Salonicco, rivendicazione per la distruzione di alcune banche e bancomat. La sera del 22 ottobre ad Atene, alcuni agenti di polizia della DIAS, unità motociclistica, hanno inseguito un'auto che non si era fermata a un posto di blocco. Nel veicolo c'erano tre ragazzi rom. L'inseguimento è iniziato nella zona di Aigaleo, città della periferia occidentale di Atene, ed è finito nelle strade di Perama, città vicino al Pireo, dove l'auto è stata crivellata da 38 colpi di proiettile. E apro parentesi, era quei colpi che si sentivano all'inizio dell'audio che abbiamo mandato, chiuso parentesi. Uno dei passeggeri, Nikos Sampanis, è morto sul colpo. Un secondo passeggero è rimasto gravemente ferito, mi pare, tra la parentesi, che sia anche un minorenne, questo secondo passeggero che era in macchina con Nikos, ed è tuttora ricoverato in condizioni critiche in un ospedale, mentre il guidatore è riuscito a fuggire inseguito da una raffica di proiettili. L'immediata reazione dello Stato, dei media e degli sbirri è stata da manuale, subito pronti a scagionare i poliziotti, nel vano tentativo di mettere a tacere qualsiasi tipo di reazione da parte dell'opinione pubblica. Di fronte a questo incidente, lo Stato ha avuto inizialmente un atteggiamento molto cauto, fra virgolette, arrestando i poliziotti coinvolti nella sparatoria, ma senza grande successo, in quanto la solidarietà mostrata loro da parte di molti politici non è passata inosservata. I media si sono scatenati lanciando una raffica di accuse razziste contro le vittime, in quanto rom, per sottolineare quanto siano pericolosi, per giustificare le azioni della polizia. Tuttavia, gli occupanti dell'auto erano disarmati e non avevano alcun precedente penale. La loro unica, virgolette, arma era il loro colore e la loro posizione ai margini della società. Per quanto riguarda la polizia, per giustificare le sue azioni, ha usato la tattica della menzogna e del vittimismo, sostenendo che nel tentativo di togliergli il mezzo, il veicolo li avrebbe speronati con il chiaro scopo di ucciderli, e che questo è provato dal fatto che 7 di loro sono rimasti feriti nell'incidente. Naturalmente i filmati audio e video hanno smentito categoricamente tali affermazioni. Nei giorni seguenti abbiamo assistito a numerosi tentativi da parte dei media di screditare 3 giovani, accusandoli di essere dei ladri esperti, tentativi andati a vuoto, in quanto basati su delle menzogne. La verità, l'unica verità, era ed è una sola. I poliziotti e lo Stato hanno ucciso un ragazzo. Sono stati il razzismo, il bigottismo e il potere, non la paura per la loro vita, ad armare le mani dei poliziotti che hanno sparato quella notte. E da quando poi non fermarsi a un posto di blocco è punibile con la morte? Ma per quanto possa essere dura la verità, non ci coglie impreparati. Non è la prima volta che lo Stato e il Capitale si lasciano dietro una scia di cadaveri. Che succeda per le pallottole dei poliziotti o per l'arbitrarietà dei padroni, per lo sfruttamento e l'oppressione, come nell'ultimo caso quello dell'operaio 45enne Dimitris Dagli, smembrato da un carroponte sul molo della Cosco nel porto del Pireo. Tutte queste persone non torneranno mai più dalle loro famiglie. Hanno pagato con la loro vita per un pezzo di pane, per un misero stipendio. Hanno pagato il prezzo di essere nati poveri in un mondo che appartiene ai ricchi. Questa non sarà l'ultima volta che lo Stato e il Capitale uccideranno, a meno che non cessino di esistere. A meno che le persone ai margini della società, i poveri, gli sfruttati, gli oppressi, non abbattano le barriere di classe, a meno che non rovesciamo questo sistema che semina morte e dolore. Così anche noi abbiamo voluto mettere una piccola pietra nel mosaico della resistenza e della solidarietà di classe, realizzando attacchi coordinati con martelli contro banche e bancomat. La notte di martedì 26 ottobre, 2 in via Lagada nella parte occidentale di Salonicco e 1 in via Karamanlis nei quartieri orientali. Mai abituarsi alla morte, organizzarsi e lottare per l'uguaglianza e la libertà. Brigata Nikos Sampanis, 26 ottobre 2021. It's the name of those held in. E intanto stiamo ascoltando questa band scozzese, loro sono i Political Asylum, e una band che è esistita tra i primi anni 80 fino al 93, esattamente dopo l'uscita di questo 10 pollici che è targato, è datato 1992. Loro sono i Political Asylum. The dead leaves of autumn remind me of that part of you you gave to me and took away as only you could do. I've got a feeling winter's on the way. I've got a feeling winter's on the way. Sì, ci siamo, siamo qui di nuovo su Zardins Magnetics, circa le 20:52 di giovedì 23 dicembre. Abbiamo fatto un po' di propaganda per questo quindicinale anarchico internazionalista Bezmotivni. Se qualcuno è interessato, oltre alla, diciamo, all'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione del Friuli Venezia Giulia, che siamo noi, può chiederlo direttamente a senzamotivo@riseup.net, cioè senzamotivo@riseup.net, o addirittura, se siete ristretti, se qualcuno si trova ristretto e vuole, è interessato a richiederlo, può scrivere a Bezmotivni presso casella postale 59 54 033 Carrara, appunto chiedendo di abbonarsi, una copia costa 1,50 euro. E a questo punto io direi che posso passare diciamo all'approfondimento di questa sera, appunto a partire, riprendo un po' il filo del discorso che ho cercato di imbastire scorse puntate, erano degli interventi che avevo fatto sul insomma su come andrebbero degnamente ricordati e i militanti rivoluzionari. Si partiva da un articolo di Monica Caballero, che è anarchica cilena imprigionata tuttora, e che appunto voleva diciamo sottolineare il fatto che anche Sacco e Vanzetti, pur essendo di dominio pubblico, diciamo due figure accettate, accettabili da tutte, anche i ben, così, ben pensanti, come anche Sacco e Vanzetti, fossero in realtà interessati ad altre cose che farsi accettare dai ben pensanti, fossero appunto anarchici di azione, che appunto anche loro attaccavano le, diciamo insieme ad altri, le sedi del appunto di chi sfrutta, di chi opprime e i proletari, e che appunto in loro solidarietà altri compagni anarchici in giro per il mondo avevano attaccato ad esempio la sede del consolato italiano in Argentina, sempre negli anni 20, si parla. Poi un'altra volta mi ricordo di aver accennato a un libretto appunto che dove sono state ripubblicate dei documenti riguardano i gruppi autonomi che operavano nella Francia, nella Spagna franchista, appunto, che però questi gruppi ovviamente si avevano riferimento alla Francia, anche altri insomma movimenti degli anni 70 in Francia, erano gruppi armati, anche questi attaccavano diciamo le sedi degli oppressori. E cosa c'era da evidenziare rispetto a questi qui del Gari, del Mil, eccetera? Che anche loro appunto mettevano in pratica, diciamo, agivano, diciamo, la critica all'ideologia di altri gruppi militari, magari prettamente così leninisti, e non avevano, cioè il loro diciamo discrimine era il contenuto dell'azione di attacco, non erano altre, diciamo, erano il livello organizzativo o il livello di strutturazione della lotta come appunto partito combattente, eccetera. Era un'azione, diciamo, un tipo di prassi militante che si sviluppava attraverso un tessuto di relazioni, quindi tipo di pratica informale, di organizzazione informale, senza alcuna necessità a definire la propria azione. Tutto questo per, in realtà, io adesso ve lo svelo, insomma, ero capitato per caso, quasi per caso, su una su un filmato sempre su YouTube. Era un filmato appunto realizzato, penso, dalla Scatasuna, dal centro appunto da questo centro sociale occupato di torinese, che avevano appunto realizzato in memoria di una certa Giuseppina Bianchi, biellese, compagna appunto ex, cioè compagna rivoluzionaria, lungamente in carcere per storie appunto di appartenenza alle Brigate Rosse nei lontani anni 70, si parla. Quindi io appunto capito su questo filmato, diciamo che ha dei alti e bassi, può piacere, diciamo, ma a me interessava appunto che questa signora, che ripeto, Giuseppina Bianchi, che purtroppo ci ha lasciato un anno e mezzo fa, che io non conoscevo, ma che appunto credo sia morta di vecchiaia, appunto, credo non per altri motivi, e siccome si era in zona, in lockdown, nel primo lockdown, credo che appunto si sia voluto rifare, diciamo, un ricordo come si deve, appunto, di questa signora, e per questo è stato realizzato questo documentario. Ma io un po' così sono andato a cercare chi era questa insomma compagna, e viene fuori appunto che era del Biellese, per la precisione appunto era appartenente alla colonna, se così si può dire, Biellese, insomma, che era un giro di compagni, non era isolata, e appunto della prima ora, già insomma della prima ondata di questi gruppi, diciamo, armati degli anni 70, della prima, diciamo, forma organizzativa delle Brigate Rosse, quindi metà anni 70, ripeto. La cosa che mi ha incuriosito era che oltre, insomma, negli anni 2000 ha partecipato questa signora alle lotte contro il TAV in Valle di Susa, perché era appunto molto molto così legata alla storia di Fra Dolcino, all'eretico, insomma, l'eretico che appunto fu messo a rogo proprio a Biella, diciamo nel 300, esattamente me l'ero segnato. Era nato Dolcino da Novara nel 1250 e appunto messo a rogo nel 1307, e che aveva organizzato, diciamo, una rivolta importante, cioè significativa, occupando militarmente addirittura la Valsesia, che se non sbaglio è in quella zona, cioè nella zona appunto di Biella e dintorni. Questo perché appunto c'è un'epigrafe, chiamiamola, di Walter Benjamin, filosofo tedesco, nelle sue tesi di filosofia della storia, dice: anche i morti non saranno al sicuro dal nemico se egli vince. Questo nemico non ha smesso di vincere. Cioè, mi ha colpito questa epigrafe, che era in un libro appunto su Dolcino da Novara. Stasera non parleremo dei dolciniani, però voglio parlarvi di questa Giuseppina, e appunto perché appunto si lega, secondo me, in qualche maniera, discorsi che si era fatti in precedenza, insomma le precedenti puntate, perché appunto cercando notizie su questa compagna vengono fuori il punto di vista del vincitore, a parte il filmato, che invece no, diciamo, poi adesso ne mandiamo un pezzettino e poi vorrei fare dire qualcosa anche su quello. Però se voi andate su motore di ricerca e cercate, insomma, notizie su questa compagna, vi esce vengono articoli di funzionari di partito, di gente appunto di apparato, che appunto magari della zona, che parte dalle, guarda caso, dal, a parte dai suoi pregiudizi, ma anche da ricostruzioni dovute a chi appunto, pentito, fra virgolette, ha infamato tutta una serie di suoi ex compagni e compagne, raccontando al nemico tutta una serie di storie, e a parte tutto ciò anche danneggiando irrimediabilmente quello che si stava portando avanti, e insomma è anche, oltre che insomma altri danni anche personali, voglio dire, è una qualcosa che danneggia anche a livello qualitativo il tipo di strategie, di azioni che si stanno portando avanti, e le rovina in qualche maniera, no? Poi è un processo irreversibile quando succedono queste cose. Mi sono anche un po' perso, ho perso il filo. Io guardo anche la console per dire che se loro sono pronti possiamo mandare anche l'audio che avevo preparato. Ho conosciuto Giuseppina un bel po' di anni fa nell'ambito della lotta Notav. Erano i primi mesi del 2006, dopo che noi avevamo riconquistato il terreno di Venaus, dove avrebbero voluto fare il primo maxi sondaggio, e lei venne in credenza nella nostra osteria collettiva, diciamo, insieme a Romano, un compagno padovano, che la portò lì perché dicendole che quello era un luogo di dolciniani. Quindi io lei l'ho conosciuta come dolciniana nel senso del movimento, che era un movimento rivoluzionario di operai e contadini che nel 1300 combatterono contro i vescovi Conti e contro i quali fu scatenata l'ultima crociata. Io Giuseppina l'ho conosciuta in carcere, a Voghera. Quando io sono arrivata, lei ci stava da un po' d'anni, come tutte le altre, io sarei restata quasi per ultima. Ho saputo della sua esistenza nella sua organizzazione quando l'hanno arrestata, lei e suo marito, e lì ho scoperto anche che esisteva un posto che si chiama Oglieppo Inferiore. Ho andato a cercarlo sulla cartina e ho detto: non ci posso credere. Questa cosa io l'ho anche usata negli anni successivi, quando qualche buon tempone mi diceva che avrebbe voluto venire con noi, ma non ci aveva trovato. Io gli rispondevo che ci avevano trovato persino ad Oglieppo Inferiore, quindi non dicesse balle. Quando io sono arrivata a Voghera, lì c'è stato il cerimoniale di accoglienza da parte della sezione. Quindi c'erano tutte queste celle nel suo corridoio lungo, chiuse, fuori c'erano tutte mani con vari oggetti di ristoro, perché lì ti levavano tutto quando arrivavi, ti davano una divisa terribile. Quindi c'erano tutte le compagne che mi davano pantaloni, maglioni, bagno schiume, tutto quello che serve per quando non c'è niente. E tra le varie facce sorridenti di questi cancelli c'era la sua. Questa era un po' anomala rispetto al resto, perché era una madre di famiglia che sta a testimoniare il fatto che quando anche i meno adatti, chiamiamoli così, si imbarcano in un'avventura come quella della lotta armata, vuol dire che il tempo è giusto, secondo me almeno. E lei ho imparato a conoscerla bene, perché mi ha insegnato un sacco di cose. Mi ha insegnato, mi ha trasmesso più che altro una sua cultura politica che gli derivava dalla tradizione da cui veniva, cioè quelle popolazioni di confine dove sono esistiti quegli episodi di autogoverno molto importanti, dove è esistito dove c'è stato Dolcino, dove c'è stata la Resistenza, e lei c'aveva questo portato dei tempi lunghi, del respiro profondo della storia, e questo a parte che è una cosa che secondo me ci può aiutare anche oggi a superare questo momento, diciamo, un po' complicato. E questo si rifletteva anche nel quotidiano, naturalmente. Cioè, lei mi ha insegnato, rispetto a quel posto allucinante che era Voghera, mi ha insegnato come fare a tenere dritta la schiena senza cioè, quelli erano anni difficili, difficilissimi, sia dentro il carcere che fuori. Quindi, diciamo che un atteggiamento di belligeranza diretta era assolutamente perdente, nel senso che se massacravano il punto non succedeva assolutamente niente. Quindi lei mi ha insegnato a resistere, usando l'arma del boicottaggio, che del confronto diretto con le guardie. Lei era una persona molto intelligente, secondo me, che sapeva usare l'ironia, c'era un senso di ironia fortissima, e quindi il massimo è stata la sua battuta a una delle guardiane più terribili, noi chiamavamo Hitler questa tipa. E lei, in un confronto così verbale, non mi ricordo qual era la questione, quali ce n'erano sempre, gli disse: guardiana, si metta una mano sulla divisa. Questa è rimasta un attimo spiazzata, perché che gli fai a una così? Cioè, non è che puoi dire che t'ha offeso, porti la divisa. Però era terribile come battuta, era molto di più delle offese classiche, no? Per cui in carcere succede questa cosa, di questo linguaggio che accomuna sia le guardie che i carcerati. E questa era Giuseppina, che mi ha insegnato, per esempio, nel nostro lavoro andavamo insieme a fare il lavoro di lavanderia, dovevamo lavare le lenzuola sia nostre che quelle delle guardie, e mi ha insegnato come, nonostante il controllo molto ferreo da parte delle guardiane, come trattare in maniera diversa i due tipi di lenzuola, perché quelle delle guardie uscivano fuori che sembravano pezzi di cartone praticamente. Questa era lei, con la sua faccia bonaria, col suo sorriso che partiva dagli occhi, con questa sua lunga storia che si portava sulle spalle, e con questa sua assoluta fermezza. Tu potevi stare tranquillo e qualsiasi cosa succedeva, Giuseppina ce l'ha trovata, stava là. Era perché aveva appunto, lei era capace di resistere, perché noi ci avevamo davanti molti anni di galera, quindi non è che potevamo scherzare, dovevamo resistere, non è che potevamo offendere, perché non avevamo gli strumenti per poter offendere. Ecco, io adesso il titolo me lo sono segnato del filmato, se vi interessa, è In memoria di Giuseppina, una storia di militanza nel biellese. Le due compagni che hanno parlato, secondo me non occorre fare nomi, comunque sono conosciute. E cosa volevo aggiungere? Appunto, no, niente, che io cioè è necessario tutta una fatica per arrivare appunto a questo tipo genere di ricordo, no? della persona che ci ha lasciato, perché se noi lasciamo la parola appunto al nemico, ma anche banalmente a gente insomma che è abituata a macinare lì, a star sedute sulle scrivanie, a macinare le persone in maniera così indiscriminata, appunto si fa, cioè bisogna proprio come spaccare, cercare dentro, non so, il granito, quello che interessa, ecco, non so perché è dura, insomma, non è così immediato. Un'altra cosa che mi sono segnato era che mentre appunto l'ultima diciamo la testimonianza principale che abbiamo ascoltato dice a Oriepo ci avevano trovato, dice, no? Oriepo può far ridere a una di Roma, no? A una di Colleferro, però comunque di Oriepo era anche Pietro Secchia, che era appunto considerato esponente della linea dura rivoluzionaria con i tempi di Togliatti, no? Quindi sì, non è che perché uno non è di Roma è uno sprovveduto o è, diciamo, come li chiamava Peci, li chiamavano quei bravi beduini di Biella, no? Peci, il pentito Patrizio Peci, nelle sue scartoffie appunto i tribunali hanno scritto che secondo lui quelli di Biella erano dei beduini, invece forse non era proprio così, era diversamente la questione. E ultima cosa, e appunto un'altra cosa che mi sono segnato, che dice la compagna qui, popolazioni di confine, episodi di autogoverno, no? La resistenza, eccetera. Non è, cioè certo, ovvio, sicuro che è così nel caso di questa compagna che non c'è più, appunto, che era del biellese, ricordiamo. Stessa cosa si può fare di dire anche, cioè noi stiamo trasmettendo da Udine e abbiamo avuto, cioè le forze della resistenza, diciamo, friulane sono state e giuliane a contatto diretto con un'esperienza addirittura non di autogoverno ma di tentativo di autogestione statale, tutto quello che volete, autoritaria e con le sue difficoltà, con le sue grosse insomma nodi insomma irrisolti, che è stata quella della resistenza jugoslava. E quindi forse è vero che, diciamo, quelli che si trovano, diciamo, da un certo punto di vista sul confine, non è dipende sempre il discorso del confine, no? Il margine, da che punto di vista lo guardiamo. E sui tempi lunghi della storia della rivoluzione, anche qua ci sarebbe forse da approfondire meglio, però stasera non credo lo faremo, forse lo faremo più avanti, e io direi che per stasera può bastare, e vi saluto e do la linea al console. We'll be right back. E stiamo ascoltando in sottofondo questa band hardcore che comunque in un certo senso si rifà a quello che è lo straight edge hardcore nazionale, ovvero italiano, e anche tutto un filone che è esistito ai primissimi anni 2000, anche se ovviamente molto più, cioè, più in là con gli anni, però c'è stato questo grande filone in Italia, e questi sono, è una band milanese che si chiamano DBV, che comunque sarebbe l'acronimo di Death Before Work, ed è questo disco datato 2006, ed è una band che è esistita per una breve durata di anni, appunto tra il 2005 e circa il 2010. Bene, questa band è della zona di Milano, loro erano i DBV, ovvero Death Before Work, una band che ha fatto questo disco, che tra l'altro disco particolare, ovvero una edizione che ben poche le band hanno fatto in questo stile, ovvero un lato è picture disc, con un disegno proprio stampato su un vinile, l'altro è inciso, e anche se hanno messo circa una ventina di brani solamente su un lato, cioè l'unico lato registrato, e come ho detto, zona di Milano 2006. E ora siamo quasi giunti al termine di questa trasmissione, che ripeto è Zardins Magnetics, e va in onda ogni giovedì dalle ore 20 qui dai studi di Radio Onde Furlane da Udine fino alle 21.30, dalle ore 20. E prima comunque di salutarci vi ricordo sempre i nostri indirizzi, anzi prima dei nostri indirizzi vi ricordo che questa trasmissione la potete riascoltare sul blog, che si chiama zardinsmagneticsradio.noblogs.org, ripeto zardinsmagneticsradio.noblogs.org. e oltre a questo l'odierna puntata potete anche ascoltare quella delle precedenti edizioni. Inoltre, se volete scriverci potete farlo tramite posta elettronica, casella postale, la casella postale libere tutti @autistiche.org, ripeto libere tutti @autistiche.org. e poi potete anche farlo nel classico formato cartaceo, che è associazione senza sbarre, casella postale 129, Trieste Centro 34121. Ripeto, potete scrivere intestando ad associazione senza sbarre, casella postale 129, Trieste Centro, codice di avviamento postale 34121. Questo è tutto, vi lascio con l'ascolto forse di un brano, forse due, di questa band toscana tuttora esistente, che si chiama Nido di Vespe, e hanno fatto un CD promozionale, una specie di tape così su CD all'incirca 10 anni fa, che si chiama Il bel paese attacca, la cittadinanza tace. Loro sono i fiorentini Nido di Vespe. Ciao a tutti e al prossimo giovedì. In definitiva, cos'è che ci rende diversi, voi e me, da un pesce rosso, da una farfalla, da un orangutan? La mente? L'anima? L'odore del nostro corpo? No. Probabilmente è il fatto che gli esseri umani sono gli unici a mettere in gabbia altri animali, perfino se stessi. Roba da non credere.